24 mattino. Tutti i politici a parlare di sbarchi, di numeri di sbarchi, di numeri di persone, e nessuno che parli di integrazione di popoli. Integrazione di popoli. Simone, c'è differenza tra il caso Gregoretti e l'ultimo sbarco che hanno tenuto per le vie delle elezioni, perché il primo era proprio un no categorico, voi non entrate. Il secondo era un sì, solo che bisognava stendere. Sì, io come dicevo, insomma, sono un filino perplesso, nel senso che a prescindere dalla distinzione, dalle distinzioni giuridiche che sicuramente ci sono, insomma, per cui è chiaro che probabilmente quell'annuncio di Salvini che denuncerà la Morgese per sequestro di persona è una provocazione politica, però resta la perplessità sul fatto di tenerla ferma esattamente nei giorni del voto, no? Un filo di perplessità, concedetecelo. Visto che era già successo durante le elezioni in Umbria. Le 7, 21 minuti e 47 secondi, la seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia e la parte dedicata alla rassegna stampa, che iniziamo come sempre da un'occhiata alle prime pagine e alle aperture. Se il Corriere della Sera sceglie come titolo forte la corsa ai rimpatri per il virus, per il coronavirus, ha però in apertura un titolo dedicato alla politica, il caos 5 Stelle, lite sull'alleanza alle regionali. Franceschini, un'intervista, e dice sarà bipolarismo tra PD e Lega. Il Giornale titola già incartati e salvati dal bluff di Renzi, prescrizione autostrade, governo in crisi. La Repubblica parla di guai in casa per Salvini, con Giorgetti che critica la campagna elettorale stando ad un retroscena e Meloni e Berlusconi che dicono no ai candidati leghisti nelle regioni del sud. La Stampa anche parla di un fronte contro Salvini, però è l'idea di Giuseppe Conte che fa infuriare i 5 Stelle, dice la Stampa. Il Messaggero sceglie più nettamente l'apertura sul virus, il ponte aereo per gli italiani. La Verità sceglie proprio il tema dell'immigrazione. Come voleva si dimostrare, dopo il voto, gli sbarchi sono senza vergogna, titola il quotidiano. Particolare l'apertura di Libero. Più maschicidi che femminicidi. Ultimi dati disponibili, 133 uomini uccisi all'anno, mentre le donne sono 128, eppure non si assiste a mobilitazioni in favore del sesso forte, che in realtà è debole. Posso naturalmente, quando parliamo di femminicidi, non parliamo di donne uccise in generale, ma di donne uccise da partner o ex partner, quindi insomma il discorso è un po' diverso. Il manifesto Buonanotte Palestina sul piano di pace di Trump. E il Sole 24 Ore, apertura dedicata alle fusioni bancarie. La Banca Centrale Europea detta le regole e si parla anche poi della riforma fiscale a centropagina con l'obiettivo semplificazione. Anche Avvenire dedica l'apertura al piano di pace di Trump. Stati asimmetrici è il titolo. Iniziamo come sempre però da qualche notizia un po' diversa, su quelle centrali arriveremo tra poco anche con Paolo Mieli, e fatemi iniziare proprio da Avvenire però. Siamo a pagina 10 e Avvenire decide di partire da un caso recente, quello di ieri, quando due maestre di 59 e 54 anni, dipendenti della materna Che Guevara di Vittoria in provincia di Ragusa, sono state messe ai domiciliari perché secondo gli inquilenti avrebbero insultato, umiliato e percosso con schiaffi, strattonamenti e spintoni bambini dai 30 mesi ai 4 anni che erano stati affidati loro. Prende spunto Avvenire per raccontare una realtà, quella dei maltrattamenti a scuola, che denuncia essere in crescita. Troppo Stupri, maltrattamenti è il titolo del pezzo di Fulvio Fulvi, appunto a pagina 10. In 6 anni le violenze ai bambini sono aumentate di 14 volte. 8 gli episodi dall'inizio del 2020, appunto l'ultimo a Vittoria nel Ragusano, che è l'8º episodio di presunti maltrattamenti a minori in una scuola italiana che viene denunciato dall'inizio dell'anno, cioè in soli 28 giorni. Un fenomeno che si ripete con una frequenza impressionante da 6 anni a questa parte, lungo tutta la penisola, e sempre con le stesse dinamiche e modalità. I bambini tornano a casa scossi, si comportano in modo strano, mamma e papà li interrogano e vengono fuori dubbi e sospetti sul comportamento degli insegnanti. I dati emergono da una ricerca realizzata da Vittorio Lodolo Doria, è un medico milanese, è specialista in materia di burnout degli insegnanti. Cos'è il burnout? La crisi da stress da lavoro, per intenderci. Un mestiere usurante, come si sa, soprattutto con l'aumentare degli anni di servizio. Spesso si tratta di maestre nonne, così vengono definite, che scoppiano di fronte alla vivacità spesso eccessiva dei bambini che dovrebbero educare ed accudire. Tant'è vero che l'età media delle maestre finite nelle maglie della giustizia è di 56 anni, secondo questi dati diffusi appunto da Vittorio Lodolo Doria. 255 docenti indagati tra il 2014 e il 2019 per 137 inchieste aperte in regioni del sud e delle isole, nel 46% dei casi. Ed è bene che qualcuno accenda un faro su tutto questo. Ed è bene che si torni ad accendere un faro su una questione che più volte abbiamo affrontato, il tema dei mitici netturbini di Roma inabili al servizio. Nei giorni scorsi il neo amministratore delegato dell'azienda che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti, che è l'AMA, aveva fornito questi dati. Dipendente dell'AMA su tre, uno su tre tra quelli che dovrebbe occuparsi della raccolta dei rifiuti, risulta inabile al servizio. È una percentuale pazzesca, racconta lo stesso amministratore delegato Zaghis. C'è un grosso disallineamento tra Roma e le municipalizzate delle altre città italiane. La media nazionale è del 17% dei dipendenti, mentre noi abbiamo il 32%, sostanzialmente il doppio, racconta Lorenzo De Cicco a pagina 32 della cronaca di Roma del Messaggero. E dunque, prima soluzione, beh, ti tolgo un po' di lavoro pesante e però ti mando per strada. Siete inabili a maneggiare carichi pesanti? Ecco scopettone leggero e paletta altrettanto agevole da movimentare. Con questa attrezzatura snella i primi 260 netturbini idonei dell'AMA saranno spediti in strada. Quando? I primi di febbraio. Tra massimo 10 giorni saranno ufficialmente in servizio come spazzini di quartiere, soprattutto nel centro storico, per renderlo più decoroso. Ovviamente a questa notizia, apriti cielo, i sindacati si sono arrabbiati. Fatto sta che, ci racconta sempre De Cicco in un altro pezzo nella stessa pagina, che l'azienda ha fatto scattare le visite fiscali e improvvisamente 6 inidonei temporanei sono subito guariti. Ma pensa un po'. Siamo, e forse i pezzi migliori su questo si trovano sul giornale e ovviamente sul Sole 24 Ore, e questo è un vecchio tema che ritorna, il tema del pagamento dello Stato alle imprese che lavorano per lui, ossia chi riceve un appalto di qualsiasi tipo per la pulizia, per lavori edili, eccetera, eccetera, che viene pagato con estremo ritardo, con il risultato ovviamente che le aziende si vengono a trovare in difficoltà perché non hanno soldi. Dunque, ieri è arrivata la condanna della Corte di Giustizia Europea e adesso l'Italia, racconta Giorgio Santilli a pagina 6 del Sole 24 Ore, rischia il pagamento di una maximulta. L'Italia avrebbe dovuto assicurare il rispetto effettivo da parte delle pubbliche amministrazioni nelle loro transazioni commerciali con le imprese private di termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in serata commenta, dice che i dati su cui la Corte si pronuncia riguardano il 2015 e il 2016 e da allora la situazione è notevolmente migliorata. E però, la situazione è ancora questa. Certo, nel 2018 e nel 2019 la media è scesa a 72 e 73 giorni. E però, E però non è così dappertutto. Per esempio, per l'edilizia i dati sono molto più pesanti. Nei lavori pubblici le imprese devono aspettare in media ancora 4 mesi e mezzo, 133 giorni per l'esattezza, per farsi pagare, con i comuni, e questa è una media, occhio, è una media, con i comuni in cima alla lista dei cattivi pagatori. 8 comuni su 10 lo fanno in ritardo. Potete immaginare questo che cosa rappresenta per un'azienda, soprattutto per una piccola azienda. A proposito di situazioni che si trascinano da tempo, il Corriere della Sera, pagina 22, ci porta su una storia che insieme è bella da raccontare ma dolorosa. È una storia che arriva da Muccia, comune in provincia di Macerata, un comune che contava 900 anime quando ci fu il terremoto del 2016 e adesso ne conta una, il borgo con un solo abitante. So che non lo vedrò rinascere. Si chiama Domenico Pietrella, 66 anni, una vita trascorsa come operaio sulle piattaforme petrolifere dell'Eni tra Congo, Egitto e Libia, è nato a Muccia in provincia di Macerata e nel 2016, come tutti gli altri, ha vissuto l'esperienza di questo terremoto devastante. Terremoto devastante che ha lasciato agibile una sola abitazione nel borgo, la sua, quella di Domenico, che dunque adesso vive là e vive sostanzialmente da solo. Certo, appena fuori dal paese ci sono le famose casette, c'è un bar che è appena riaperto all'interno di una struttura provvisoria, e però la situazione è questa, la situazione di una ricostruzione ferma. Tutto è cambiato da quella sera, racconta Domenico. Quando arrivò la scossa capimmo subito che i danni erano seri e il sindaco Mario Baroni conferma le difficoltà. Siamo il comune delle Marche con la più alta percentuale di sfollati, 79%, 78,5%. Siamo disponibili a rimboccarci le maniche, ma qualcuno ci deve aiutare. Baroni è tra i sindaci locali che di recente si sono rifiutati di incontrare il governo. Non ne posso più di ascoltare parole, taglia corto. Conservo però la speranza, una speranza che via via naturalmente si fa sempre più flebile. Una pausa. E a proposito dei pagamenti dello Stato alle imprese, di questi ritardi, coglie un buon punto Paolo da Reggio Calabria, che ci scrive che l'antimafia si fa anche con i pagamenti puntuali, perché le imprese mafiose, quelle che hanno i soldi della mafia, non hanno problemi di liquidità e quindi a maggior ragione lo Stato dovrebbe pagare puntualmente le imprese, specie al sud dove invece i ritardi sono più frequenti. Caro direttore Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Eccoci qua. Allora, iniziamo direi dal Medio Oriente e da Donald Trump, che presenta il suo piano di pace appunto per il Medio Oriente. Dicevo, Paolo, che insomma fatico a ricordare un presidente americano che non ci abbia provato, insomma, a raccordare le due parti. Lo fa adesso Trump con un progetto che appare però già di suo divisivo. Sì, Marco Valsania sul Sole 24 Ore, pagina 20, lo presenta in maniera impeccabile, Trump e Netanyahu, perché ha un sostegno pieno, come era prevedibile, da parte del primo ministro israeliano, presentano una soluzione per la Palestina, previsto uno Stato palestinese, ma restano gli insediamenti esistenti. Il piano, come hai appena detto, non ha alcuna possibilità sulla carta di essere varato, perché come ci dice Repubblica, ci dicono un po' tutti i giornali, prendo a caso La Stampa, Giordano Stabile, fronte comune a Massa Abu Mazen, i nostri diritti non sono in vendita, perché Trump ha promesso molti soldi, 50 miliardi di finanziamento ai palestinesi se accettano questo piano, ma c'è una insurrezione, devo dire in due tempi diversi, sì. Ho notato che prima Hamas lo ha respinto, poi ci ha messo un po' di tempo in più Abu Mazen a respingerlo, però gli analisti dicono che è improbabile che venga accettato, è improbabile, cosa che sarebbe una sorpresa, che l'Arabia Saudita o qualche stato arabo importante lo accettasse, Il Manifesto dice: buonanotte sì. Palestina, Trump, l'attacco del secolo, l'articolo di Michele Giorgio, l'attacco del secolo al diritto internazionale, e questo piano di pace è un piano di pace incendiario, è una vergogna. Comunque diamogli atto di aver smosso la situazione, sì, perché di aver provato a smuovere questa... le acque quantomeno, no? Beh, sì, beh, dal 1967 che la situazione è incancrenita dalla guerra dei sei giorni, l'occupazione da parte israeliana dei territori, gli insediamenti, e comunque Israele ne approfitta per incamerare territori nella Valle del Giordano. Sì. Un punto di interesse sì, del piano di pace è la questione di Gerusalemme, nel senso che Trump dice: Gerusalemme è una indivisibile, la capitale dello Stato di Israele, però può essere anche la capitale dello, sempre stando indivisibile, dello Stato palestinese, e noi americani apriremmo un'ambasciata dello Stato palestinese anche a Gerusalemme. Insomma, è molto complicato, lo vedremo meglio sì, nei prossimi giorni, però smuove la situazione. Sì. Smuove le acque. A proposito di aree di crisi, zone tra l'altro non lontane da quella, ti porterei in Libia. Questione Libia che ci porta alla questione migranti, no? E ai nuovi sbarchi. Insomma, abbiamo parlato alle 6.45, tra l'altro lo dico agli ascoltatori, voleste risentire, abbiamo fatto un po' di numeri di quello che sta succedendo, c'è il podcast. Troviamo molte cose, no, sui quotidiani su questo tema. La Verità addirittura ci apre, insomma, e dice: insomma, finito il voto, ricominciano gli sbarchi. Ne parlano. E adesso questa, sì, infatti, è una questione molto attuale. Innanzitutto le notizie. Le notizie sono che oggi dovrebbero sbarcarne 400 e rotti a Taranto, poi ne sbarcheranno proprio, forse nella stessa giornata di oggi, da altre parti d'Italia, e ne stanno arrivando a centinaia se non a migliaia dalla Libia. Cos'è il caso che tu segnalavi? Che per la seconda volta, la prima accadde al tempo delle elezioni in Umbria, adesso in occasione delle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, il ministro Lamorgese ha fermato gli sbarchi nei giorni precedenti alle elezioni, salvo poi farli fare nei giorni successivi. Salvini è saltato su questa situazione per fare dichiarazioni, addirittura per dire che avrebbe denunciato il ministro Lamorgese. Perché? Perché dice: ma come, a me mi avete trascinato in giudizio, anzi mi state per trascinare in giudizio, perché ho fatto la stessa cosa, non sotto scadenza elettorale, ma che ho lasciato al largo degli immigrati prima di aver trattato con l'Europa la loro ridestinazione. Voi fate la stessa cosa e nessuno sì, si muove, è uno scandalo. La situazione è diversa perché le denunce a Salvini riguardano il fatto che quegli immigrati erano su navi italiani, non sì, erano su navi delle ONG. E quindi per questo lì si impernia il desiderio di trascinarlo in giudizio. Cioè, tu hai bloccato delle navi italiane, erano già sul territorio italiano e impedito sì, che gli sbarcassero. Però è indubbio che di fronte agli elettori, al popolo che non sta a guardare su che tipo di nave, o anche il popolo dei sensibili, coloro che sì, lamentavano che questi immigrati, questi profughi rimanessero a largo per 4, sì, 5, fino a 11 giorni e non fossero fatti sbarcare, le situazioni sono molto simili. Sì. Si tratta di decisioni politiche, soprattutto qui si vede in imminenza di elezioni. Di elezioni, sì, nel caso precedente, così come in questo caso. Voglio anche segnalare agli ascoltatori, prima di andare al traffico, un altro punto su tutto questo, perché ricorderete che nelle settimane scorse ci siamo concentrati un po', insomma, forse non tantissimo, forse non abbastanza, sul memorandum d'intesa con la Libia, che ricorderete doveva essere rivisto, se ne era parlato lungamente, su questo tema era intervenuto anche il ministro ministro degli esteri Di Maio e lo stesso governo. Ebbene, domenica 2 febbraio, questo memorandum Italia-Libia, nel quale l'Italia doveva chiedere migliori condizioni per quei centri di detenzione nei quali vengono subite violenze appunto ai migranti che si trovano là, tra le altre cose non solo, ebbene domenica 2 febbraio si riterrà automaticamente rinnovato. Ce lo ricorda Repubblica, pagina 12, con Alessandra Ziniti, e anche là sarà da vedere, caro Paolo, come andranno le cose. Sì, insomma, la sinistra ha vinto le elezioni in Emilia, però la situazione nel governo, tutti ieri dicevano ma adesso il governo navigherà in acque più tranquille, neanche per niente. No, le acque sono agitatissime, anzi sembra, da quello che succede, è come se le elezioni in Emilia fossero state perse, anche perché un partito dei due, il più importante, 5 Stelle, di fatto le ha perse, certo. Il partito è sotto terremoto. Sì, è sotto un po' sotto scacco. Allora, il traffico, e poi ripartiamo proprio da qua, dalle questioni che hanno a che fare con la giustizia, innanzitutto con i numeri forniti dal ministro Bonafede ieri, che comunque sono interessanti, e poi certo la prescrizione e tutto il resto. Mattino. Sole 24 ore, pagina 8, il pezzo a firma di Giovanni Negri riassume un po' quella che è stata la relazione di ieri del ministro Bonafede sullo stato della giustizia, e definisce correttamente il debito pubblico della giustizia italiana, quello stock di cause arretrate, no, che rallentano il sistema. Però c'è un elemento, no, Paolo, che positivo, sì. No, confortante, il calo delle cause del 36%. Sì, Bonafede, il ministro, ha presentato le linee guida, pendenze giù, ma combattere, bisogna combattere la sfiducia, e poi ha annunciato che l'organico verrà rafforzato con 600 nuovi ingressi. L'articolo di Giovanni Negri, ma ce n'è un altro, sempre Giovanni Negri, sulla stessa pagina del Sole 24 Ore, che dice che la prescrizione, cioè come sbloccare la questione della prescrizione che divide PD Italia Viva dai 5 Stelle, slitta alla prossima settimana. Altra brutta notizia: la Camera rimanda in commissione il disegno di legge Costa, Italia Viva non vota. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che ancora non ci siamo. Ogni volta viene annunciato, adesso lo risolviamo questo problema della prescrizione, che il 1 gennaio non è stata di fatto abolita, adesso dobbiamo aggiustare la situazione, ma il tempo passa, siamo già alla fine di gennaio, non si è fatto niente. Nel frattempo però Bonafede sta per diventare, come annuncia, sì, Matteo Pucciarelli su Repubblica, il capo delegazione, cioè quello che prende il posto di Maio dentro il governo. Bonafede è il capo delegazione, ma le alleanze, l'articolo è quello su Repubblica, spaccano i 5 Stelle. Il ministro della giustizia prende il ruolo di Di Maio nell'esecutivo, ha buoni rapporti con Di Maio e nello stesso tempo con Conte, così cambia la geografia del, sì, movimento. Come sempre, per capire come cambia la geografia del movimento bisogna leggere Il Fatto Quotidiano, e Il Fatto Quotidiano non è molto ottimista. Parte la corsa tra Contiani, Dibba e Di Maiani. A un mese dagli Stati Generali, il Movimento 5 Stelle, Di Battista prepara una mozione antiliberista. La Castelli, frontwoman per Di Maio. Patuanelli, sì, Taverna e Grillo pro governo. Cioè si dividono in tre. Sì. In tre correnti, una ormai più filodestra, una neutralista e una abbastanza corposa, che vede in Conte il suo leader e governista, un... governista, no, come lo vogliamo, sì, chiamare, governista, ma anche di più fusionista, con fusionista col PD, nel quale PD, senti, esatto, è su quello che ti volevo portare, no? Il Partito Democratico, che insomma anche là, pur risultando vittorioso alle elezioni in Emilia Romagna, pur risultando il primo partito in Calabria e quindi avendo visto qualche segnale positivo, sta un po', anzi forse proprio sulla base di questo, sta un po' ripensando se stesso, anche nella chiave che diceva Zingaretti, aprirsi all'esterno. E il Corriere della Sera che cosa ci comunica? un'ipotesi veramente che da fare il salto sulla sedia, che il nuovo presidente potrebbe essere, mettiamolo al condizionale, perché lo stesso Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, che conosce meglio di molti altri giornalisti le questioni interne al PD, è Chiara Gamberale alla presidenza. Chi è Chiara Gamberale? È una scrittrice molto nota qui a Radio 24, perché se non vado errato ha tenuto una rubrica, spesso sì, una trasmissione. Collaborato, sì, sì, una trasmissione autrice da noi. Di libri che i più giovani ricordano, perché è una scrittrice per lettori giovani che si chiamano Adesso, Luci nelle case degli altri, Qualcosa, La zona cieca, e tra l'altro ex moglie, o non so, il suo stato coniugale, di un altro grande scrittore, Emanuele Trevi. E pace sarebbe, si sarebbero orientati per fare la presidente. Abbiamo, aspetta Paolo, che abbiamo l'effetto Max Headroom che ogni tanto ritorna, e vediamo un attimo di risistemare. Chi se lo ricorda Max Headroom? Chissà, insomma, questa figura strana che vedevamo in TV negli anni 80. Ce l'abbiamo di nuovo Paolo Mieli? No, non ce l'abbiamo. Allora, dunque, qual è l'idea che circola e che abbiamo trovato sul prezzo di Maria Teresa Meli? Che Chiara Gamberale potrebbe diventare presidente del Partito Democratico. Questa sarebbe una delle idee che circolano, anche se si sta pensando in generale a una donna, magari appunto anche interna al Partito Democratico. Abbiamo di nuovo Paolo Mieli, e caro Paolo, abbiamo chiuso direi con Chiara Gamberale. Ti vorrei portare, se mi consenti. No, ma volevo dire una cosa, prego. Sola su Chiara Gamberale, perché siccome la scelta è chiaramente fatta, se venisse fatta, per aver lei collaborato con Radio 24, no, io non credo, lancio non credo in un'ipotesi proprio che anche Simone Spezia potrà essere presidente del Partito Democratico, di un altro partito, perché è per chiaro, carità, che stanno cercando tra di noi. Per carità, stanno cercando tra di noi. Infatti, secondo me, non è impossibile. Infatti, Paolo, io ti aspetto come frontman delle Sardine, cioè al posto di Santori, insomma, a questo punto ci vuole Paolo Mieli, no? Sì, e non dimentichiamo il nostro leader Sebastiano Barisoni, che potrebbe essere presidente del Consiglio al posto di Conte. È chiaro che lì cerca il PD. Il governo di Radio 24. Ascolta, non sono tranquillissime le cose nemmeno nel centrodestra, e un po' lo riporta anche La Verità, che è un giornale piuttosto vicino a Matteo Salvini, no? Si apre la partita sui candidati alle prossime regionali. Qua si gioca un po' tutto, perché questo risultato elettorale, se da una parte è stato positivo in termini numerici per la Lega di Salvini, di certo è stato ambivalente, quantomeno in Calabria, e poi come risultato finale. E quindi Meloni e Berlusconi scalpitano, mi pare. Sì, e chi vuole sapere veramente tutto su quello di cui stai dicendo, cioè i dissidi del centrodestra, oggi Repubblica fa il caso suo, perché Repubblica dedica le prime pagine quasi interamente a questi dissidi del centrodestra. Salvini, lite già in casa, questo è il titolo, guai, anzi peggio di lite, guai in casa, è lì il titolone enorme di prima pagina. E poi negli articoli successivi racconta dei dissidi con Meloni, con Berlusconi, oggi Berlusconi torna in grande spolvero con interviste, ma soprattutto mettono in risalto tutti questi giornali che Giorgetti, il numero 2, sembra muovere delle critiche, cioè fa dei complimenti a Salvini, ma dei complimenti all'Ortica. Siccome non è la prima volta che Giorgetti fa questi complimenti all'Ortica, chissà che non abbiano ragione questi giornali, che la sconfitta in Emilia abbia aperto dentro la Lega la prima crepa. Volete sapere? Io non ci credo, però vedremo. Fa divertimento sui giornali di oggi. Allora dobbiamo ricordati, sì, no, dobbiamo... Spezia, che tu sei il prossimo presidente del PD, no, perché Chiara Gamberale dirà di no e toccherà sicuramente per a te. Per carità, nell'ipotetico governo di Radio 24 ci scrive un ascoltatore: Cruciani ministro della famiglia. Vabbè ragazzi, è stupenda. Grazie Paolo Mieli anche per oggi, ci risentiamo venerdì naturalmente. GR24, ci ritroviamo subito dopo Maria Latella, parleremo di coronavirus, a dopo.